figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlaneto, benvenuti a questo appuntamento con il sociale. Badanti polacche come boss mafiosi, operai senegalesi che hanno perso il lavoro e anche quindi il permesso di soggiorno come terroristi. Uno dei punti della riforma della giustizia penale più controversi, anche nella stessa maggioranza, è il passo fortemente voluto dalla Lega Nord in cui l'immigrazione clandestina viene esclusa dal processo breve e inclusa nella lista dei reati gravi. L'opposizione è insorta, ma anche nella maggioranza ci sono stati forti mal di pancia. Suscita un certo stupore la scelta di includere nell'elenco dei reati di grave allarme sociale, come quelli di mafia e terrorismo, l'immigrazione clandestina, che è una semplice contravvenzione, pertanto punita con una banale ammenda. Così ha detto il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno. Norma ridicola più che grave, l'ha definita invece un altro deputato del PDL, Fabio Granata, vicepresidente dell'antimafia. Preoccupato anche il mondo delle associazioni. Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano. Qui c'è proprio un elemento anche di incostituzionalità, che è una delle linee che portiamo, è sempre quella della dignità, dell'uguaglianza per tutti. Collegare clandestinità o irregolarità uguale a criminalità, questa è una equazione sbagliata. Dal punto di vista culturale poi blocca, ghettizza ancora, non riesce neanche a affrontare i problemi della legalità, che poi sono la grande domanda di sicurezza che i cittadini hanno. Il reato di clandestinità viene equiparato quasi a quelli di mafia, esatto, strage e terrorismo. È proprio una cosa veramente che dal punto di vista anche culturale irrigidisce, impaurisce ancora di più, rinchiude e crea una conflittualità separata. Noi abbiamo paura dei ghetti, perché i ghetti poi fanno crescere il fondamentalismo, sono il brodo di cultura di alcuni atteggiamenti anche di copertura, di legalità e di costruzione della realtà. Io conosco una serie di persone che sono irregolari perché lavoravano e poi sono stati lasciati a casa, che sono qui da anni. Ma mi sembra proprio una linea che mira di più non all'obiettivo, a costruzione di consenso, di affrontare anche il problema serio dell'immigrazione, ma a creare consenso e a spaccare il paese creando queste comunità rancorose. Don Colmegna è occupato nei prossimi giorni, dal 19 al 21 novembre a Milano, con la sua fondazione Casa della Carità, in una 3 giorni dedicata alla solidarietà. Casa della Carità è un luogo di ospitalità, un luogo che accoglie persone che vengono da tutto il mondo, accoglie italiani, stranieri, persone con disagio psichico, ma è anche un laboratorio culturale. Da questa idea allora è nata l'idea di percorrere nella città, luoghi di riflessione, questo messaggio di una Milano che si cura, cioè guarda dentro di se stessa, scopre le straordinarie energie che ci sono e comincia a dialogare nei luoghi più significativi. Ma chi sono questi immigrati clandestini di cui parla la legge? A Ousmane, che abbiamo incontrato al centro San Fedele in un incontro con la Milano Sotterranea degli immigrati irregolari organizzato da Terre di Mezzo, è stato uno di loro. Le persone che vengono qua anche vivono di speranza, perché hanno speranza di un futuro. Si dicono che magari tra un anno, 2 anni, trovano l'opportunità di poter vivere come regolare. Anche l'immigrazione è questo. Uno viene qua, però non sa tutte le cose che gli capitano dopo. Uno non, per esempio, nelle strutture normali, uno non può andare a curarsi senza i documenti. Non è possibile, è impossibile. Io non posso andare in giro con il passaporto in tasca finché io non ho il permesso di soggiorno. Preferisco andare le mani vuote senza farmi identificare, che mi prendono le impronte digitali e mi fanno delle fotografie, che mi prendono con un passaporto e so che il giorno dopo torno in Senegal. È per quello che la gente va così in giro senza nessun documento, perché hanno sempre la paura in mente che gli può sempre succedere un controllo di polizia o qualcosa così, e c'è sempre questa possibilità qua di farti tornare indietro. I primi momenti che sono venuto qua erano dei momenti duri, perché sono entrato qua con un visto, sapendo che è l'unico documento regolare che ce l'ho in mano e che quando mi scade il visto devo rimanere come irregolare. E dopo vengono fuori i problemi, perché uno ha bisogno di curarsi, di vivere dignitosamente come gli altri. cercando un lavoro per poter almeno vivere. Però dopo, quando scade il visto, uno si rende conto che è troppo difficile, perché già da ogni posto che vai a cercare il lavoro, la prima cosa che ti chiedono è il documento. Non era facile, era troppo difficile i primi momenti. Io cerco sempre di dire una cosa, che adesso noi, per esempio, immigrati che siamo qua, viviamo una bipolarità, perché noi abbiamo solo una sola nazione. Per esempio, io dico sempre che ho avuto la fortuna di avere due paesi, il paese che mi ha fatto nascere, il paese che mi ha dato l'opportunità di poter crescere e crescere anche la mia famiglia. Sempre a Milano, ieri si è tenuto un convegno organizzato dal Centro Milanese di Psicanalisi dal titolo Straniero Familiare, che aveva al centro del dibattito proprio gli immigrati, ma in particolare le difficoltà psicologiche di bambini e ragazzi. La psicologa dello sviluppo, Ida Finzi, ha parlato ad esempio della vulnerabilità dei bambini in situazione migratoria. A seconda di come i bambini vengono accolti e di come le famiglie trovano un'accoglienza nell'ambiente sia sociale che scolastico, che anche delle cure sanitarie, può svilupparsi, cioè se l'ambiente è favorevole tutto va bene, diciamo, se invece ci sono difficoltà si può sviluppare in particolari problemi evolutivi. Per esempio il momento dell'ingresso a scuola, perché questi bambini hanno una madrelingua diversa da quella che viene utilizzata. E ci sono quindi effettive difficoltà per questi bambini e anche per i bambini italiani introdotti in scuole con molti stranieri? Dal mio punto di vista ci dovrebbe essere una distribuzione, diciamo, non una eccessiva concentrazione, ma una distribuzione equilibrata di bambini italiani e stranieri nelle scuole. I bambini stranieri costituiscono un apporto di ricchezza conoscitiva in più per gli apprendimenti anche dei bambini italiani, se sono accolti con la loro cultura, con le conoscenze che hanno dal loro paese d'origine, e possono essere perfettamente bilingui se vengono aiutati a esserlo, mentre spesso si pensa che bisogna assolutamente far loro parlare un italiano magari scorretto e impreciso, che impoverisce il loro apprendimento. I genitori di questi bambini stranieri hanno gli strumenti culturali e anche economici per affrontare il disagio di questi minori? Guardi, intanto se si guardano i dati, una percentuale molto elevata delle persone che migrano sono persone con livello di istruzione buono o ottimo, quindi sono persone che al loro paese hanno studiato. Hanno studiato naturalmente in scuole con modalità di gestione degli studi spesso molto diverse dalle nostre, quindi bisogna che le scuole e anche i servizi sanitari che li accolgono li informino in modo preciso di quali sono le nostre regole implicite, non so come dire, faccio un esempio. In Italia si usa che i genitori debbano parlare con gli insegnanti e avere un rapporto con la scuola. Sono paesi in cui questo non si usa e quindi il fatto che i genitori non partecipino, non chiedano agli insegnanti è considerato disinteresse, mentre in realtà forse è un eccesso di rispetto che loro hanno per i maestri dei loro figli. Quindi prima di tutto bisogna intendersi sulle regole implicite della nostra cultura. Anna Bassetti, psicanalista, si occupa invece degli adolescenti stranieri. Accogliamo adolescenti stranieri, fascia di età 14-15 anni fino ai 21 anni, dove l'obiettivo è quello di fare in modo che questi ragazzi al compimento del 18° anno di età siano avviati all'autonomia e non entrino in clandestinità, quindi abbiano una formazione lavorativa, un avviamento lavorativo e un avviamento all'autonomia. Sono ragazzi non maggiorenni, minorenni, quindi come tali fino al 18° anno d'età vengono presi in tutela dal comune. Altri invece hanno le famiglie, arrivano nel nostro paese con un ricongiungimento familiare, ma fino al 18° anno di età sono legati al permesso di soggiorno della famiglia. Il problema è proprio lì, cioè dopo il 18° anno di età hanno 6 mesi di tempo per regolarizzarsi, quindi per trovare un lavoro e avere un permesso di soggiorno, altrimenti diventano clandestini. Quali sono i problemi che affronta quindi nell'incontro con questi ragazzi? Questi ragazzi hanno lo shock traumatico del viaggio, no? Partono dal loro paese, magari fuggono da paesi dove c'è la guerra. Noi abbiamo uno che è un ragazzo soldato, quindi che ne ha, cioè, è stato rapito 6 anni, ha incominciato a ammazzare e adesso è fuggito, è arrivato in Italia. Arrivano nel nostro paese appunto non accompagnati, quindi in una situazione di solitudine affettiva assoluta. Non hanno competenze né linguistiche né professionali, son giovani, no? Quindi sono in uno stato di shock traumatico, insomma, di trauma da migrazione. È chiaro che per loro non è che ci sono molte strade, o incominciare a spacciare, entrare in giri di manovalanza di questo tipo, oppure appunto se in qualche modo invece entrano nel giro dei servizi sociali vengono accompagnati fino al 18° anno d'età. Queste difficoltà come si manifestano? Anche in patologie? Sì, sicuramente ci sono delle patologie, nel senso che le patologie legate ai traumi, quindi che possono essere le patologie legate alla depressione, legate al disorientamento, si evidenziano con delle modalità che sono spesse volte che seguono dei canali culturali diversi, e qui entra in aiuto l'etnopsichiatria, cioè che hanno delle manifestazioni anche diverse rispetto al nostro modo di esprimere la depressione, no? Per cui spesso si esprime attraverso l'aggressività, la violenza, il bere, e quindi questo ovviamente non fa che aumentare le problematiche poi rispetto alla possibilità che vengono inseriti socialmente. Fra qualche giorno alla giornata per i diritti dell'infanzia, il presidente di UNICEF Italia, Vincenzo Spadafora, si lamenta dei ritardi del governo italiano. L'intervista è di Nicola Accardo. Il governo ha sicuramente la necessità di risolvere alcuni punti che sono rimasti in sospeso ormai da anni. Noi non abbiamo come paese un piano nazionale dell'infanzia che è fermo dal 2004, e che vuol dire soprattutto che mancano risorse, manca un coordinamento tra le varie strutture che in Italia soccorrono l'infanzia. Allo stesso tempo la legge sul garante nazionale dell'infanzia è ancora ferma in Parlamento, e soprattutto il nostro paese ormai è sempre di più agli ultimi posti negli aiuti alla cooperazione internazionale. Questo è molto grave, perché vuol dire che anche quest'anno che si celebra il 20° della Convenzione, al di là poi della retorica o di enunciazione di principio, non c'è un comportamento conseguente. Questo noi lo chiederemo anche con forza nella conferenza di Napoli che il governo ha organizzato per i prossimi 18, 19 e 20 novembre, perché credo che vada data appunto una risposta definitiva a questo tipo di questione. Tra i 10 diritti fondamentali ce n'è uno in Italia che ha più difficoltà a trovare una dovuta applicazione? Sicuramente in questo momento mi viene in mente che il diritto all'integrazione, al rispetto di tutte le culture e le identità, trova nel nostro paese una qualche difficoltà per il crescente numero di bambini stranieri che arrivano sul nostro territorio e per l'incapacità che invece abbiamo di accoglierli e di garantire loro quali diritti. Quindi direi sicuramente che questa oggi è una priorità, però accanto a questa va tenuto presente che esistono ormai nuovi fenomeni che riguardano anche bambini italiani e nuove fasce anche di povertà che stanno riguardando sempre più bambini in Italia, nel sud come nel nord, per cui anche a queste nuove emergenze vanno date risposte concrete. La nostra puntata termina qui, grazie a tutti voi per l'ascolto, vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 14:15. Buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto.